L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta. Cambiamo un po' argomento rispetto a quello delle ultime puntate, ci siamo occupati moltissimo di rifiuti, adesso invece andiamo in campagna per parlare di Operation Pollinator. Non dico niente prima, lascio spazio ai nostri ospiti per presentarci questo progetto che tra l'altro è già operativo in Italia da tempo, quindi si possono già vedere dei risultati. I nostri ospiti sono Fabio Berta, responsabile dei progetti di sostenibilità in agricoltura di Singenta. Buongiorno, buonasera anzi. Buonasera e grazie per l'invito. E Franco Fabbri, sempre di Singenta, responsabile del programma appunto Operation Pollinator. Buonasera. Buonasera. Dunque, Fabio Berta, cominciamo però a introdurre l'argomento ai nostri ascoltatori, perché si tratta di un progetto molto ampio, poi vediamo nello specifico cosa sta accadendo sul territorio italiano con il suo collega Fabbri, ma insomma, che progetto è e che obiettivi dà? Sì, allora mi permetta di introdurre un po' il contesto nel quale stiamo operando con il progetto Operation Pollinator, perché questo poi ci permetterà di capire anche meglio gli obiettivi. Allora, noi sappiamo bene che l'incremento della domanda di cibo sta aumentando, soprattutto perché nei prossimi anni la popolazione mondiale aumenterà moltissimo. Sappiamo anche bene che i terreni agricoli comunque sono limitati, anzi il suolo sta diventando sempre più una risorsa limitata e ogni giorno vediamo migliaia di ettari scomparire su tutto il pianeta. Questo ci porta a dire che negli anni avremo bisogno di continuare ad aumentare le produzioni sfruttando nel miglior modo possibile, nel modo più sostenibile possibile, le risorse che abbiamo a nostra disposizione. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un'agricoltura che sia intensiva, ma nello stesso tempo che sia sostenibile. Come no, certo. Il contesto quindi nel quale stiamo operando è... Provo a spiegarmi con una metafora. Proviamo a immaginare una bellissima campagna australiana dove, o anche delle bellissime campagne inglesi, dove vediamo a perdita d'occhio degli sterminati campi di frumento, dove abbiamo il cielo con delle nuvole azzurre e poi abbiamo soltanto del giallo dove appunto è presente il frumento. Qua voi mi potete dire, benissimo, ma io all'interno di questo campo che cos'ho se non altro che frumento? E la risposta che vi posso dare è esattamente quello, solo frumento. Quindi quello che vogliamo cercare di fare è far sì che l'agricoltura rivada a riscoprire quello che è la biodiversità nella campagna. Quindi invece se nel mantenendo tempo... gli stessi livelli di produzione, ecco. Esatto, mantenendo ovviamente gli stessi livelli di produzione, altrimenti non sarebbe, come dicevamo prima, sostenibile. Mentre se nel contempo immaginassimo un bellissimo paesaggio tipo quello delle nostre colline toscane o anche umbre, inizieremo a vedere delle differenze, dove per esempio nelle nostre colline toscane potremmo vedere dei cereali a paglia piuttosto che dei vigneti, dei frutteti, ma anche dei boschi piuttosto che dei margini fioriti. Margini che fioriti che potrebbero essere quelli per esempio di Operation Pollinator. Margini si intende proprio i margini dei campi, questo certo, si intende. Il bordo campo dove effettivamente, come dicevamo un po', anzi non abbiamo una incisività negativa per quanto riguarda la produzione, perché il margine del campo è appunto il luogo dove effettivamente la produzione è inferiore rispetto alla restante parte del campo e quindi possiamo dedicarlo affinché possa avere diverse funzioni quali per esempio quello di incrementare la biodiversità nella campagna, nel territorio in cui lavoriamo, piuttosto che un'altra funzione potrebbe essere quella di proteggere, salvaguardare le acque, quindi dei torrenti, dei corsi d'acqua, piuttosto che il suolo, evitando gli smottamenti, evitando anche l'erosione causata dal vento piuttosto che dal ruscellamento delle acque. E un'altra cosa molto importante è quella che questi bordi campo potrebbero essere anche un rifugio o, come piace dire sempre al mio collega Franco Fabbri, quella di essere una mangiatoia naturale per diversi insetti utili in agricoltura, ma anche per uccelli o piccoli mammiferi. Ed ecco che da qui nasce Operation Pollinator, che si pone come obiettivo quello di dimostrare come un'agricoltura produttiva e nel contempo un ambiente vivo e ricco in termini di biodiversità possano convivere. Questo è l'obiettivo principale sul quale si centra Operation Pollinator. Benissimo, allora lei ha già chiamato un po' in causa il suo collega, quindi Franco Fabbri, che cosa fate poi dopo quando siamo sul campo? Abbiamo detto ci sono i margini, vogliamo raggiungere questi obiettivi di mantenere la biodiversità, un controllo del territorio, cosa si fa? Si fa questo. In pratica dal 2007, quando questo progetto è stato operato a livello nazionale, abbiamo pensato di fare in modo che anche in Italia si potessero fare queste strisce di coltivazione su terreni marginali dove l'azienda agricola comunque non aveva del reddito, prendere questi piccoli appezzamenti, meglio se strisce lunghe e strette, e quindi abbiamo cercato di capire quali essenze potessero essere più atte per questo, quindi per dare nettare e polline per gli insetti impollinatori, semi per gli uccelli. Quindi abbiamo fatto uno screening insieme all'Università di Agraria di Perugia e la Regione Umbria, più precisamente con la RUSA, che è il braccio operativo nel settore agricolo della Regione Umbria, e abbiamo preso in considerazione più essenze e dopo diversi esperimenti siamo arrivati alla conclusione che un miscuglio di un terzo di colza, che è un'essenza mellifera, e serve anche per dare semi che sono poi molto appetiti dagli uccelli, erba medica, trifoglio repens, trifoglio pratense, la lupinella, che è un'essenza autoctona tipica dell'Appennino centrale che va dall'Emilia Romagna fino alla Calabria, ginestrino e sulla, sono tutte queste essenze che abbiamo messo insieme e seminato su queste strisce. Dopo questa prima fase siamo andati a vedere effettivamente che tipo di ritorno da un punto di vista della biodiversità ci fosse, nel senso che dal 2007 in poi sono stati fatti ogni 20 giorni dei rilievi in questi campi per vedere che tipo di incremento sugli insetti pronubi e sugli uccelli ci fossero rispetto un'azienda agricola che non aveva Operation Pollinator all'interno dell'azienda. Qui abbiamo avuto degli incrementi notevoli, veramente altissimi, si parla dal 300 al 1000%. Questo per dimostrare che effettivamente la mancanza degli insetti e degli uccelli è dovuta essenzialmente a un discorso alimentare, quello che diceva prima il mio collega Berta. Se noi forniamo e riusciamo a seminare queste essenze che sono poi che diventano delle mangiatoie, va bene, in queste zone tornano sia gli insetti pronubi selvatici, cioè tornano a nidificare e a restare fissi sul territorio, tornano gli uccelli, nidificano, che si ricrea una catena alimentare virtuosa che attualmente era sconosciuta nelle nostre zone, perché tornano gli insetti, a seguito degli insetti tornano gli uccelli che se ne nutrono, certo. A seguito degli uccelli tornano i falchi, per cui si ricostituisce quella catena alimentare virtuosa che in molte zone non ha. A vantaggio anche di chi coltiva quel terreno, perché poi questo comunque è l'aspetto, ecco, ambientale. Poi d'altra parte c'è il discorso economico che non va mai va tenuto presente in seconda battuta, perché non ci scordiamo che l'azienda agricola è un'impresa, se coltiva in modo proficuo e redditizio va avanti, se no chiude e il terreno diventa poi entro pochi anni una landa desolata. Questo progetto in Umbria in modo particolare è stato recepito dalla regione, che lo ha inserito nel piano di sviluppo rurale, per cui eroga dei contributi importanti all'azienda agricola che usano questo sistema per ottenere una biodiversità in azienda. Quindi la Regione Umbria dà circa 127 euro per ettaro impegnato alle aziende agricole che aderiscono a questo progetto del piano di sviluppo rurale. Questo succede dal 2010 in poi. Altri attori che potrebbero essere interessati ce ne sono? State valutando altri interventi in Italia? Ci sono anche degli altri interventi. Chiaramente questo progetto qui noi speriamo venga ampliato e venga portato anche nei PSR delle altre regioni. Però per esempio la Facoltà di Agraria di Firenze abbiamo una collaborazione per limitare i danni dei cervidi, quindi caprioli, cervidaini, nelle aziende agricole, questo progetto qui viene portato avanti per fare in modo che questi animali si alimentino su queste fasce e non vadano a deprimere, diciamo, la produzione delle colture, certo, in modo particolare dei vigneti, con danni notevoli. Senta, a proposito di discorso economico, Fabio Berta, Syngenta è un'azienda che lavora nel settore dell'agroindustria, perché mettersi su un campo come questo quando poi comunque il vostro business comunque ci sarebbe? Qua mi fa aprire un capitolo che è quello della nostra responsabilità d'impresa. Per Syngenta la responsabilità d'impresa è declinata all'interno di quello che noi chiamiamo agricoltura responsabile. All'interno del concetto di agricoltura responsabile noi abbiamo tre principali pilastri. Uno è quello della gestione e utilizzo del prodotto in modo sicuro e sostenibile durante tutto il suo ciclo di vita. Il secondo pilastro invece guarda proprio alla sostenibilità in agricoltura, quindi cerchiamo di colpire i tre aspetti fondamentali della sostenibilità, quindi dal punto di vista economico, ambientale e sociale, e guarda caso all'interno di questo pilastro nasce il progetto Operation Pollinator, che, come dicevamo prima, vuole fornire all'agricoltore una modalità di gestione sostenibile della propria azienda agricola. Il terzo aspetto invece riguarda quello della responsabilità sociale, sia rivolta ovviamente internamente a Syngenta, quindi nei confronti dei propri collaboratori, sia rivolta alle comunità con le quali ogni giorno ognuno di noi lavora. Ecco perché Operation Pollinator è un progetto che è diventato fondamentale negli anni in Syngenta. Tenga conto che è un progetto che ha più di 20 anni di esperienza. In Inghilterra abbiamo iniziato nel 2000 l'attività di ricerca e di sperimentazione. In Italia, come sottolineava Franco Fabri, abbiamo iniziato nel 2007, ma sulle esperienze appunto già sviluppate fin dal 2000 dall'Inghilterra. E proprio grazie ai risultati ottimi ottenuti sia dall'Inghilterra che dall'Italia, Syngenta poi ha deciso di sviluppare praticamente in tutto il mondo il progetto. Io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione a questo punto è finito. Chi volesse contattarvi come fa, Fabio Berta? Può contattarci direttamente sul nostro sito www.syngenta.it, oppure può direttamente scriverci sempre attraverso il sito alla casella di posta elettronica dedicata agli utenti. Molto bene, chi vuole invece scrivere a Radio 24 scrive a l'altropianeta@radio24.it. Grazie di nuovo ai nostri ospiti e appuntamento alla prossima settimana.